Ritmi serrati in Parlamento per la manovra economica. La priorità, dopo il varo del disegno di legge al Senato e ora la conversione del decreto fiscale che accompagna la finanziaria, i tempi stringono, va approvato entro il 1° dicembre ed anche per il numero di emendamenti presentati sembra difficile che il governo riesca ad evitare di porre la fiducia. Di questo si parlerà tra breve a Montecitorio in una riunione dei capigruppo della maggioranza che anticiperà l'avvio del dibattito in calendario per le 15. Tra le ipotesi c'è dunque la presentazione di un maxi emendamento che recepisca il testo del decreto collegato così come uscito dalla Commissione Bilancio, dove sono stati approvati solo pochi emendamenti. Le modifiche riguardano il bonus incapienti, che torna a 150 euro, emotrasfusi biodiesel. A queste modifiche potrebbe aggiungersi una norma per salvare i fondi europei non spesi dalle regioni. Altro nodo per l'Unione è quello del welfare, di pensioni, contratti a termine, job on call e deleghe per il mercato del lavoro. Si parlerà comunque domani in un vertice a Palazzo Chigi. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.